Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suerni in redazione, Pietro Lacorte in regia. Diceva bene poco fa Annalita D'Ambrosio nel giornale radio, ha suggestioni che proseguono in Europa anche oggi con il sorteggio dei gironi dell'Europa League. Diceva bene anche sul fatto che oggi parleremo tanto di calcio, naturalmente immagino che avrete voglia di commentare quanto è uscito dall'urna ieri, ma anche oggi per le italiane presenti in Europa League. Ma poi parleremo anche di basket come tradizione del venerdì e aspetto Andrea Zorzi per chiudere con lui il programma sulla pallavolo. Ma intanto il calcio, naturalmente avete sentito i gironi di Europa League, anche qui diverse suggestioni, i gironi non semplici, perché il Genoa, che era in quarta fascia, pesca Valencia, Lille, francesi, e lo Slavia Praga. Per la Roma ci sono il Basilea, il CSKA di Sofia, ma soprattutto il Fulham di Roy Hodgson, mentre per la Lazio c'è il Villarreal di Giuseppe Rossi insieme a Levski Sofia e Salisburgo. Per la verità, come immagino molti di voi, io credo, anch'io me lo sentivo, Kakà e Ibrahimovic che tornano subito a San Siro con maglie diverse. Questa è la suggestione massima, il resto ieri è stata la polpa di gironi nel complesso non facili. Siccome siamo a un giorno dal derby e per tutta settimana abbiamo sentito personaggi da derby, mettiamo tutti insieme, salutiamo e ringraziamo Ilario Castagner. Buongiorno Ilario. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parametro di ogni girone, lei mi insegna sempre la fascia 3, difficile per il Milan, secondo me non semplice per la Juventus, un po' meglio per l'Inter con la Dinamo Kiev che ieri sera ha preso Shevchenko. Ma c'è il Kazan che è la quarta più forte nel girone dell'Inter. La Fiorentina è squadra di terza fascia e secondo me se la può giocare con il Lione. Una sua fotografia su questi gironi, un suo parere su questi gironi di Champions? Sì, io penso che la Fiorentina proprio abbia la possibilità di superare il turno, ma però deve curare particolarmente lo scontro diretto con il Lione, perché con il Liverpool, anche se è partito male in campionato, credo che non ci sia partita, perché gli inglesi sono talmente forti, talmente esperti, sì, abituati a giocare la Champions League, che penso che quando sarà il momento verranno fuori. Quindi proprio sarà importante che fin da subito la Fiorentina curi lo scontro diretto. È la prima partita. La curiosità è che nella prima partita le tre nostre squadre affrontano le tre squadre inglesi, sì, il Lione, il Bordeaux e il Marsiglia, sì, proprio la prima giornata. Quindi credo che ecco, il Milan sia più forte del Marsiglia, anche lì probabilmente, non so, vedremo come riuscirà ad assemblare il Real Madrid, perché certo, devono fare la squadra prima, perché hanno dei grandi campioni, certo, ma per adesso ancora la squadra, insomma, c'è il caso che fanno 3 gol o 4 e poi magari ne prendono 5. Ilario, per il Milan c'è l'ulteriore problema determinato proprio dal calendario, perché è vero, si apre con il Marsiglia e sarà subito una partita determinante. Tra l'altro il Marsiglia mi sembra, alla luce anche della campagna acquisti estiva, una squadra molto seria, ma poi soprattutto il Milan va al Bernabeu il 21 di ottobre e poi avrà il Real Madrid ovviamente 2 settimane dopo, quindi nel cuore del girone. Sarà un Real con tanti chilometri nelle gambe e negli ingranaggi, quello che affronterà il Milan in questo doppio confronto appunto nella fase centrale del girone. Sì, sì, è vero, è vero. E comunque anche il Milan avrà avuto modo probabilmente di sistemare alcuni problemi. Penso che sia tutta da giocare. Non è detto che il Real Madrid con tutti questi campioni possa superare il Milan. Io so che il Milan è composto da giocatori che hanno grande esperienza e che quando giocano in Champions danno sempre il massimo, sì. Quindi tutti gli avversari che affrontano il Milan questo lo sanno, Real Madrid compreso. Per la Juventus come la vede? Mi sembra non semplice, perché pesando sempre il girone sulla squadra di terza fascia, il Bordeaux di Gourcuff comunque sarà un avversario non semplicissimo, e sarà molto importante per la Juventus proprio il debutto in casa con sì, il Bordeaux, perché poi giocherà col Bayern Monaco subito. Sì, fare 3 punti sarà molto importante, proprio perché si tolgono la diretta rivale, anche se il Bayern quest'anno sta facendo fatica, molta fatica. Mi sembra che si abbia dei problemi anche con l'allenatore, l'allenatore ha voluto mettere da parte alcuni giocatori, Toni compreso, insomma, non mi pare che abbiano iniziato bene, non hanno ancora vinto una partita su 3 in campionato, quindi hanno dei problemi ad assemblare un po' i giocatori che hanno, per cui credo che la Juventus di queste 3 squadre sia nettamente la più forte, quindi penso che mentre Inter, Milan e Fiorentina faranno fatica a trovare il primo posto. Io penso che la Juventus il primo posto lo possa conquistare, diciamo, non facilmente, però abbia più possibilità. L'Inter ha pescato un girone probabilmente dal livello medio più elevato, perché la quarta forza, il Kazan, è una squadra da non sottovalutare, tra l'altro campione di Russia, ed è l'unico girone che ha quattro squadre campioni nazionali di tutta la Champions League. Però onestamente la Dinamo Kiev, nonostante l'arrivo di Shevchenko, ieri ne parlavamo di Shevchenko, che sembrava essersi abituato alle pantofole della tribuna di Stamford Bridge, invece sono molto contento si voglia rimettere in gioco tornando a casa e provando ad essere di nuovo protagonista a Kiev. Però tutto sommato mi sembra un girone, cioè Ibrahimovic subito, via al dente, via al dolore alla prima partita, sì. Poi un girone in cui l'Inter non, cioè, deve gestire con autorità della squadra che vuole vincere la Champions, insomma. Non c'è dubbio che chiaramente il Barcellona in questo momento, per ovvi motivi, è favorito, e il punto interrogativo secondo me dell'Inter è il periodo nel quale sarà costretto a giocare a Kiev e poi su in Russia, perché giocare a novembre lassù c'è il caso di trovare già lo zero gradi oppure addirittura sotto zero. Io mi ricordo proprio di essere andato a Kiev per una partita Dinamo Kiev Inter, che si giocò questa partita con 3 o 4 gradi sotto zero, era una cosa proprio impossibile. Per cui tante volte i giocatori il freddo particolare lo soffrono, e quindi magari i valori tecnici possono, poi la differenza può attenuarsi. Certo. Intanto io invito gli ascoltatori a intervenire 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Lei ieri sera ha commentato la Roma, oggi appunto stavamo dicendo dei gironi che sono usciti, peraltro per la Roma non semplice, visto che prende il Fulham insieme a Basilea, CSK di Sofia, Genoa girone complicato con Valencia, Lille, Slavia Praga e appunto i rossoblù, che ieri sera hanno giocato una gara difficile perché i danesi sono arresi soltanto alla fine. Ieri sera a Roma, dopo 5 minuti, onestamente era già un amichevole, un imbarazzante amichevole del giovedì, ma leggendolo in controluce, Roma-Juventus promette di essere partita interessante, anche se la Roma continua secondo me a giocare senza portiero quasi. Sì, è vero, la Roma dà la sensazione quando attacca di poter sempre creare pericoli, che è una squadra che fa scorrere la palla con giocatori che si muovono, Totti che si inventa sempre giocate particolari, poi quest'anno sta bene perché si è potuto allenare regolarmente. C'era una differenza enorme di valori, dopo pochi minuti c'erano 4 gol di differenza, è stata sicuramente un'amichevole e devo dire che la Roma non ha consumato energie nervose. Il problema della Roma invece è in difesa. Certo, contro la Juventus sarà tutta un'altra storia, perché invece la Juventus è una squadra molto forte quando attacca. Adesso con Diego, che a me piace tantissimo ed è un giocatore che sta raggiungendo la forma migliore, sicuramente la difesa della Roma dovrà giocare una partita particolarmente attenta e concentrata, perché sennò corre il rischio di bissare il risultato dello scorso anno. Sì, Juan potrà essere importante, ieri sera tornava dopo tanto tempo, è un giocatore che comunque ha fatto un lungo andirivieni dall'infermeria nell'ultima stagione, ormai la coppia Juan Mexes, che è stata a un certo punto nettamente la più forte del nostro campionato, si è un po' persa per strada. E anche Mexes l'ultima stagione non l'ha giocata benissimo. Dunque domani il derby, e tu che dice il derby voglio proprio godermelo, voglio proprio assaggiarlo. Sneijder che si sta allenando da Piano Gentile, oggi Leonardo e Mourinho si presenteranno ai microfoni. Leonardo che presumibilmente non cambia la squadra di Siena, Mourinho che a quanto pare mescolerà le quattro carte del centrocampo. Dario Castagnier questo derby l'ha vissuto, come ricorderete bene, su entrambe le sponde. Questo come lo legge? Io sinceramente vedo l'Inter favorita, perché secondo me l'Inter è più forte del Milan, perché l'Inter si è rinforzata nonostante abbia dato via Ibrahimovic, e invece il Milan ha perso Kakà. Certo. E tra l'altro, poi il Milan ha faticato molto, facendo secondo me una preparazione sbagliata, perché avrebbero dovuto stare in media montagna, creare la vaccinazione contro la fatica e poi andare a fare le partite. Invece è stata una preparazione fatta a base di viaggi, aerei e partite dure, che ha messo in difficoltà un po' tutto l'ambiente, anche per i risultati poi che naturalmente sono, certo, sono arrivati. Ma come ben sa, tutto vantaggio del salvadanaio. Sì, sì. Ecco, comunque bisogna dire, perché io ero proprio a Siena sabato scorso e il Milan a Siena ha giocato bene. E hanno giocato bene Ronaldinho e Pato. Ecco, il problema del Milan secondo me è vedere come se la caverà nel momento in cui il pallino passa agli avversari, come si difenderà contro una squadra che, certo, li costringerà a difendersi. Sabato scorso più delle volte il Milan ha avuto il pallino in mano, certo, e quindi per Pato e per Ronaldinho in particolare è stato più facile poter sfruttare le loro qualità. E domani sera saranno costretti a giocare anche in difesa i giocatori del Milan, e quindi il collaudo più grosso sarà quello. E poi, visto che il Milan si è messo nelle mani di Girardino, c'è da sperare di Ronaldinho, pardon, c'è da sperare che questo giocatore dia un rendimento costante, trovi continuità, perché i campionati e la classifica si fa con giocatori che danno sempre 7, 6 e mezzo, 7 e mezzo, no, una volta 7, una volta 8 e l'altra volta 4, perché sì, sì, così le classifiche non si fanno. Leonardo fa bene a non cambiare la squadra di Siena, e poi l'idea di Mourinho sembra essere quella di Zanetti come anti-Ronaldinho, appunto. Ronaldinho domenica sabato a Siena ha avuto molto spazio e soprattutto, dice benissimo Mario Castagnera, l'ago della bilancia di questa partita sarà nella fase difensiva del Milan, con questi tre attaccanti, soprattutto Pato e Ronaldinho, che Borriello si fa un mazzo così, e mi sembra imprescindibile con questo tipo di squadra. L'ago della bilancia sarà nella capacità di Pato e Ronaldinho di sacrificarsi un po'. Zanetti come anti-Ronaldinho può essere un'idea? E montare trequartista, a quanto pare Mourinho sarebbe orientato per quella soluzione. Zanetti può, secondo me, fare tutto, perché è talmente bravo, talmente applicato, forte fisicamente, forte, sì, sì, sempre lucido in campo, che abbiamo visto, insomma, il jolly. Se si dovesse sacrificare in una, diciamo, un'occhiata particolare a Ronaldinho, credo che sia in grado di svolgerlo questo compito. Poi per il resto, insomma, io ho visto che già l'Inter ha cominciato a cambiare gioco rispetto all'anno scorso. Adesso la palla gira a terra, i passaggi sono più corti, e nella prima partita l'Inter ha trovato un Bari che non si aspettava, il caldo, sì, il gol sbagliato da Eto'o del 2-0, però insomma, poi alla fine non ha fatto una gran partita e il Bari se l'è meritato, certo, certo. Io penso proprio che ci sarà comunque in ogni caso un Inter cresciuta, perché avranno preparato la partita con particolare attenzione e con particolare concentrazione, si sono allenati di più, quindi credo che secondo me, ecco, dovessi fare un pronostico, la logica dice Inter. Sì, penso io, chiaramente non è che abbia particolari simpatie per uno o per l'altra squadra, sono amico di tutte e due le società, sono stato bene in tutte e due le sponde, sì, quindi mi piace vedere e applaudire la squadra che gioca meglio. Grazie Ilario, buon lavoro, grazie davvero. Grazie anche a voi, un saluto a tutti. Grazie davvero Ilario Castagnere, buon derby. Adesso passiamo agli ascoltatori, 800240024, sono curioso di capire se anche loro come me si sentivano nelle ossa questo sorteggio che ha riportato subito Kakà e Ibrahimovic nella loro vecchia casa, San Siro. Lucio Treviso, buongiorno. Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Mi sente, buongiorno. Sono Lucio di Montebelluna. Niente, volevo chiedere, secondo lei, un 2-0 nel derby per il Milan? Sì. E un 2-0 per il Barcellona può mettere in discussione Mourinho? No, no, non credo. Non credo, anche se qualcuno comincia a dire che Moratti, insomma, tutto sommato sta cominciando a mettere in discussione le basi del suo amore per l'allenatore portoghese, non so se questo sia vero o reale, ma non, francamente non mi interessa neanche tanto. No, non credo proprio, anche perché insomma questo derby è ricco di un sacco di suggestioni. Arriva il 29 di agosto, comunque alla fine di agosto, poi ci sarà la pausa per la nazionale, ci sono ancora un certo numero di partite di campionato da giocare. Io credo che anche se il Milan dovesse vincere, magari anche vincere in maniera convincente, questo derby non succederà nulla, e non succederà nulla nemmeno in caso di vittoria del Barcellona, che resta fino a prova contraria la squadra più forte del mondo, secondo me. Vittoria del Barcellona a San Siro. A parte il fatto che non sono così convinto che il Barcellona farà il colpo a San Siro, ma comunque insomma mi sembra davvero che all'alba della stagione non si possa seriamente mettere in discussione un allenatore di un grande club, a parte Van Gaal, che è partito davvero in maniera pessima con il Bayern di Monaco, che tra l'altro ha preso Robben. Però mi sembra che se parliamo seriamente, i club di questo livello non possono mettere in discussione l'allenatore per due sconfitte, fossero anche nel derby con il Barcellona nella apertura della Champions League, non credo proprio. Francesco da Roma, da Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo parlare del girone di qualificazione della Champions della Juventus. Sì. Credo che, secondo mio parere, che non sia poi così abbordabile, anche perché incontrando in terza fascia una squadra come il Bordeaux, campione di Francia, lei che ne pensa? Ma io sono d'accordo, infatti l'ho detto prima, insomma il valore di un girone di Champions League si misura tendenzialmente dalla squadra di terza fascia. La Juventus ne ha pescata una serie, perché il Bordeaux, campione di Francia, il Bordeaux di Gourcuff, stella nascente, eccetera, certo non è la terza più morbida che potesse capitare. Dunque sarà un girone non semplice, un girone in cui comunque la Juventus, mettendo anche insieme il fatto che c'è un Bayern di Monaco che stenta, girone che la Juventus ha la possibilità, giocando ad alto livello, di superare. Dire che sia un girone morbido non è vero, perché ne leggo di più semplici. Ho sotto gli occhi l'H, Arsenal, AZ Alkmaar olandesi, l'Olympiakos, Standard Liegi, che secondo me è forse la peggiore squadra di questa prima fase di Champions League. Insomma, è un girone non semplicissimo, però è un girone che la Juventus ha la possibilità di superare. A proposito, c'è Beppe da Cuneo che domanda, era preoccupata se Grosso arriverà alla Juventus o no. Io credo che arriverà Fabio Grosso alla Juventus. Si sta parlando di soldi, si stanno mettendo d'accordo sui quattrini, però l'idea è quella, e a questo punto penso verrà seguita fino in fondo. Intanto, prima di Francesco, della provincia di Varese, vi leggo questa agenzia. I club inglesi, ma non solo, hanno tempo 3 anni per pareggiare i conti dei loro bilanci in rosso. Questo è l'avvertimento del presidente dell'UEFA, Michel Platini, che minaccia persino l'esclusione dalla Champions League. Chiaro, non è inedito, ma sono dichiarazioni, sono notizie di oggi, visto che a Monte Carlo sono in corso anche gli stati maggiori dell'UEFA. L'avvertimento del numero 1 del calcio europeo è stato rilanciato appunto nel corso della 2 giorni di sorteggio a Monte Carlo. Preoccupato per il continuo aumento dell'indebitamento delle società di calcio zavorate da costi più alti, Platini intende assumere iniziative clamorose, fino anche l'esclusione dall'Europa per i club che non rispetteranno i bilanci. In un prossimo futuro, scrive oggi il Times, la UEFA si aspetta che i club europei spendano non più di quanto incassano dalla biglietteria, merchandising, diritti TV e premi. Platini dunque non sembra più intenzionato a chiudere un occhio di fronte a club come il Manchester City, che negli ultimi 12 mesi ha speso oltre 250 milioni di euro, una cifra largamente superiore ai suoi introiti. Daremo tempo ai club 3 anni per sistemarsi, il messaggio è semplice, non si può più spendere più di quanto si incassa. Queste le parole di Roi Michel. Francesco, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Intanto, volevo fare una domanda. Secondo lei, io sono un tifoso interista innanzitutto, secondo lei l'Inter, per centrare i propri obiettivi, è necessario che vinca la Champions? O meglio, se l'Inter non vincerà la Champions, sarà un'altra stagione fallimentare? Oppure secondo lei si può considerare comunque magari uno scudetto come un traguardo, diciamo, eccellente? Anche perché lei cosa dice, Francesco? Ma io, guardi, da tifoso ho 23 anni, sì. E premetto che da non ho mai vissuto gioie come negli ultimi anni, cioè non ho mai festeggiato uno scudetto piuttosto che una vittoria. Certo. Però mi sembra molto un periodo molto particolare, nel senso che l'Inter, se non vince la Champions, viene considerata comunque un fallimento, mentre in realtà mi sembra che l'anno scorso il Milan sia partito con il chiaro intento di vincere lo scudetto e di vincere la Coppa UEFA. In realtà questi due obiettivi non sono stati centrati, no. Nessuno ha parlato di grosso fallimento del Milan, quindi mi sembra, diciamo, l'attenzione mediatica sulla vittoria della Champions eventuale dell'Inter mi sembra, diciamo, molto prepotente rispetto a quello che in realtà non lo è stato. Ma vede, però Francesco, questo è corretto, però c'è anche il fatto che è l'Inter stessa che si induce questa pressione, nel senso che è dall'Inter stessa che escono questi messaggi anche comprensibili. Dopo una striscia di scudetti è chiaro che si vuole il bersaglio grosso, però Champions League la vince una, per tutte le altre che saranno o il Barcellona o il Real Madrid che ha speso un Everest di quattrini, o il Manchester United o il Liverpool o il Chelsea, per una di queste sarà un fallimento non vincere la Champions League. Beh, insomma, è chiaro che può essere obiettivo dichiarato di tutti, però mentre uno scudetto si programma, come dice giustamente Mourinho, una Champions League dipende anche dipende moltissimo dai dettagli, dipende moltissimo dai particolari. Secondo me il discrimine sta nel presentarsi al momento che conta della Champions League, quindi alla ripresa, agli ottavi, ai quarti, alle semifinali, al massimo della condizione. Se arrivi lì con una squadra che l'Inter è competitiva sul piano europeo dal punto di vista dell'organico, se arrivi lì al 100% della condizione e riesci a giocartela, allora hai fatto il tuo, poi il resto appunto sono i dettagli che fanno la differenza. Sono obiettivi e traguardi molto diversi anche dal punto di vista della programmazione, campionato e Champions League, quindi mi fa molto sorridere tutte le volte sentire dire il nostro obiettivo era Champions, poi sbagli 20 minuti, la Champions va a farsi benedire e allora di cosa parliamo? Di traguardo fallito? Non credo. Dunque, Sneijder presentato, maglia numero 10 nerazzurra dell'Inter è sua, vorrebbe giocare subito il derby ma non c'è ancora il transfert e dunque non ci sarà, non è tra i convocati. L'Inter sta provando ad ottenerlo per domani, ma dice Branca se non arriva domani, se arriva oggi arriverà di certo domani. Comunque per Sneijder non ci sarà un debutto nel derby di Milano. Se volete ve lo faccio sentire un attimo, Sneijder. Seconda, se ti senti pronto per giocare il derby. Welcome Wesley, I have two questions for you. The latest Dutch number 10 in Inter was Dennis Bergkamp. I'd like to know whether you had a chance to speak to him and whether you know that he had quite an adventure here. I mean, it was not it was full of ups and downs. It was not a bed of roses. And the second question is if you are ready to play the derby. Actually, I didn't speak to Dennis Bergkamp before, but I think he's an example of every young football player, and so I think he's an amazing player with a lot of qualities, and I hope I can do the same what he did in his good times here in Inter. So, but well, I'm not thinking about the number 10. I just want to play my games and. Avete capito qualcosa? No, insomma, è stato chiesto, fatto notare che il numero 10 all'Inter era quello di Dennis Bergkamp, che non è che abbia lasciato esattamente un ricordo maestoso all'Inter. Ho detto, ma il mio problema non... Dennis Bergkamp è stato un grande giocatore, un esempio per tutti i giovani, ma non è che sto pensando esattamente al numero 10 o a lui, pur sapendo che nell'Inter non ha lasciato un grande ricordo. Andrea da Biella, buongiorno. Buongiorno. Subito un commento mi è venuto in mente adesso quando Prisco diceva che Bergkamp era il giocatore più forte del mondo in allenamento. Sì. Allora adesso mi rilascio a quello che sì. Ho sentito. Una piccola riflessione, ho sentito le dichiarazioni di Michel Platini, sostanzialmente vorrebbe che le società spendano non più di quello che ricavano. Sì. Bene o male è quello che dice Lotito, però quando lo dice Lotito c'è sempre un po' quell'atteggiamento nei mass media e nei tifosi. Come dire, ma sì, è un poverino, lo dice, no, e no, ma fanno male. Lotito dice un sacco di cose intelligenti, il problema è che dice veramente un sacco di cose e nel mucchio, insomma, alcune cose ampiamente condivisibili, altre meno, come quando ad esempio si viene a parlare un po' a sproposito di salary cap, magari senza sapere fino in fondo come sono le logiche che sovrintendono a questi meccanismi laddove sono applicati in una maniera idonea, corretta e completa. Andrea? Certo, però comunque insomma è uno che di pallone ci capisce, di finanza anche, ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, nonostante una tifoseria inspiegabilmente contraria. Inspiegabilmente contraria, ma sono d'accordo. Allora, lo dice Platini, va bene, lo dice Lotito un po' meno. No, no, va bene da tutte e due le parti, va bene da tutte e due le parti, è una lettura corretta del calcio, però insomma, che lo dica Platini ha un peso vagamente diverso rispetto alle esternazioni di Lotito. Il senso è quello e io concordo, ma ogni persona di media intelligenza dovrebbe farlo, insomma. Platini dice i club hanno 3 anni di tempo per colmare quelle voragini che sono soprattutto in Inghilterra, voragini che sono soprattutto in Spagna al Real Madrid. Sono grandissime realtà che si reggono su voragini debitorie. È anche vero che hanno un modo molto più moderno, molto più manageriale di gestire il fenomeno calcio, perché lì ripeto per la milionesima volta, stadi di proprietà, merchandising che funziona in maniera veramente redditizia, diritti televisivi trattati a livello globale e con larghi introiti, insomma hanno un modo di gestire il calcio che è vero, è improntato su un'inaccettabile situazione debitoria, però sono anche entità che realmente producono molto denaro. Quindi secondo me è ovviamente condivisibile da tutti noi il discorso di Platini, però dobbiamo tenere conto anche delle differenze tra il modo di gestire il calcio all'estero e il modo di gestire il calcio dalle nostre parti. Qui siamo alla tessera del tifoso e a tutte queste amenità. Paolo da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un grande ammiratore del modo con cui De Laurentiis ha cercato di ridimensionare alcuni giocatori che volevano degli ingaggi o degli aumenti nonostante avessero un contratto, e questo penso che sia un esempio e dovrebbero seguirlo un po' tutte le squadre, anche perché sto calcio sta perdendo tantissimo come credibilità di competitiva, nel senso che non posso pensare che adesso lei con questa legge dovrebbe andare in vigore il fatto che non puoi spendere più di quello che guadagni, ma se alle spalle di una società, e questo non ho capito, c'è un paverone dei paveroni che falsa alla fine gli equilibri, perché parliamo della nostra Serie A, alla fine finanziariamente sono 3-4 squadre che possono competere alla fine, e quindi lo scudetto si limita a quelle 3-4 squadre, e io vorrei che il calcio diventasse qualcosa aperto un po' a tutti, anche alla squadra che... Però se alle spalle c'è un paverone, ripeto, che senso ha che io spendo rispetto a quello che guadagno, però poi il paverone mi risana il bilancio e si ricomincia da capo a vedere Inter che ognuno è libero, il mercato è libero, diceva un certo Pier Silvio, però il quale poi Silvio adesso giustamente comincia ad andare in rosso e deve far quadrare, vorrà una legge. Prima era lui paperone, adesso Moratti, quella di Moratti è chiaramente una gestione mecenatistica del calcio, però non è che all'estero, insomma, abbiano i paperoni in questa maniera. Al Manchester United dove ci sono i Glazer, al Liverpool hanno i paperoni, al Manchester City, ma non è quello il modo di gestire il calcio, insomma non è questione di paperone, è questione di avere modalità diverse e più manageriali di gestire il pallone. Poi ha ragione Platini, perché non si possono consentire queste due velocità così evidenti nella gestione dei bilanci calcistici a livello europeo. Certo, non si può impedire a Moratti di staccare l'assegno di 100 milioni di euro, 150 milioni di euro per ripianare il bilancio, però non mi sembra un sistema praticabile da tutti e così lungimirante. Dunque adesso ci fermiamo, perché come sapete venerdì io ci tengo molto, abbiamo Palla Spicchi. 5 minuti di chiacchiera cestistica, spero non mi vogliate negare questo piacere. Ritrovo dopo l'estate il mio amico Jerry De Rosa, voce del basket italiano su Sky. Ciao Jerry. Ciao, buongiorno a tutti. Tutto bene? Passata bene quest'estate? Non sì, felicissima per l'azzurro? No, decisamente no, però io l'ho passata bene. Ci prepariamo all'europeo degli altri, noi a casa. Ma non è detto che ci sia la Francia, perché... Risultato di ieri, perso di 4 punti in Belgio ad Anversa, e sarebbe l'ennesimo sberleffo, non ci andasse la Francia. 6 punti nell'ultimo minuto di Dimitri Lowers, che conosciamo bene, il prossimo giocherà ad Avellino, sono bastati 26 punti di Parker. Insomma, il Belgio ha fatto veramente una gran sorpresa, è stato sotto tutto il primo tempo, poi con orgoglio, insomma, è riuscita a fare questa mezza sorpresa. Adesso aspettiamo il ritorno di sabato. Per chi si può fare il tifo lassù in Spagna? Forse per Scariolo e per la Spagna, mi sembra l'unica soluzione. Ma anche perché sinceramente non vedo rivali, insomma. Sta facendo una fase di preparazione in cui vince tutte le partite di 15-20 e temo per la spettacolarità dell'evento che questo sia un po' il trend anche degli europei, perché anche le altre squadre sono veramente con molte assenze, insomma mancano i grandi nomi NBA quest'anno, Nowitzki, Kirilenko, per citarne solo due. La Spagna invece si recupera Gasol al completo, la Lituania è senza Siskauskas, Kaukenas e Jasikevičius, insomma sono la Grecia ha delle assenze importanti, poi all'interno di un processo di rinnovamento, insomma potremmo aprire anche un dibattito, insomma, sulla questione europei. Obiettivamente farne a settembre permetteva almeno una volta di avere i giocatori NBA, però rovina la preparazione delle squadre di club. Quest'anno non ci sono neanche i giocatori NBA, insomma sembra un po' monco questo europeo. Infatti insomma anche la situazione dell'Italia andrebbe valutata un po' meglio. La Bulgaria non avrà Jaber, per esempio, non credo che la Bulgaria ci avrebbe buttato fuori l'anno scorso senza Jaber, giusto per fare un esempio. Non c'è dubbio, Jerry. A proposito sempre di squarci azzurri, leggevo oggi un'intervista sulla Gazzetta dello Sport a Fernando Minucci, no? Dice: Pianigiani, se la nazionale ce lo chiede, vengano a trattare, siamo eventualmente disposti a concederlo, come avevamo fatto a suo tempo per Recalcati, però non in un'Italia di questo tipo, ma in una realtà strutturata che metta tutti d'accordo, che permetta di programmare, eccetera, eccetera. FIPE Lega non è detto, secondo me, Jerry, che debbano essere per forza in guerra, che ci debba essere per forza scontro totale, perché è anche la nazionale della Lega. Io credo che anche la Lega abbia interesse ad una nazionale forte. Ma questo è poco ma sicuro, perché comunque resta comunque sempre la rappresentazione massima di tutto il movimento. È evidente che, stante questa situazione di continua battaglia fra Lega e FIP, anche la situazione di Simone Pianigiani, almeno nelle parole di Minucci, si inquadra in questo. Cioè, nel momento in cui, ha detto Minucci, la FIP capirà che sono i club che traino il movimento e quindi che, almeno interpreto le parole di Minucci, insomma, e quindi le regole dovrebbero essere fatte, se non esclusivamente dalla Lega, comunque con la Lega come principale proponente, allora si può parlare anche di Pianigiani nazionali. L'ho visto un po' così, insomma, qua si torna al discorso della convenzione sulle quote italiani e non su cui, fra l'altro, per il momento l'estate ha portato una copertura, non si è più parlato di questa, di questa vicenda, però sicuramente i rapporti in questo non è che non sono brutti, non esistono proprio. No, non c'è alcun dialogo. Questo è un male per tutti. Insomma. Non c'è alcun dialogo. Mi viene ho quasi la sensazione che aveva ragione il vecchio coach Dan Peterson, che venerdì scorso diceva: questa nazionale serve per prima cosa un general manager come è stato Rubini nei tempi di crisi a fine anni 70, con Gamba che ha portato all'argento europeo dell'80, come è stato per gli Stati Uniti Colangelo, il momento di crisi di massimo flop, gli Stati Uniti si sono affidati a Colangelo, grande general manager. Cosa ne pensi di una accoppiata Minucci-Pianigiani in nazionale? Ah beh, i risultati sono quelli che hanno fatto in Italia, ma anche in Europa, è sicuramente l'accoppiata migliore. Il problema è che quanto diceva Coach Peterson, che come sempre ha detto la cosa perfetta, il problema è che poi questi personaggi, se facciamo finta Minucci e Pianigiani, dovrebbe totale carta bianca. E in un paese come il nostro, strutturato sportivamente come il nostro, è difficile, insomma, che arrivi un dirigente e abbia totale carta bianca, come ha avuto Colangelo per Team USA, In qualsiasi aspetto: l'organizzazione della squadra, della preparazione di un evento, della convocazione dei giocatori, le garanzie che un giocatore una volta convocato venga, insomma ci sono mille aspetti che sono nella creazione dello staff, sia dirigenziale che sanitario, della squadra. Non dimentichiamoci che noi abbiamo uno dei massimi dirigenti mondiali del basket che collabora con la nazionale canadese, Maurizio Gherardini. Cioè, insomma, sono tanti esempi che fanno capire come si stia navigando un po' a vista, e poi i risultati della nazionale sono, diciamo, anche espressione di questa confusione che c'è. Naturale. Avremo tempo e modo per parlarne a lungo. Grazie, Jerry. A presto. Volentieri. Grazie a te. Grazie davvero a Jerry De Rosa. Ha speso l'estate a inseguire i rimbalzi di un pallone da pallavolo in giro per il mondo, però adesso, finalmente, se Dio vuole, è tornato. Il segno di Zorro. Andrea Zorzi, dove eri finito? Ma in un sacco di posti, in alcuni casi ho rincorso un pallone, qualche volta l'ho anche giocato, ma comunque in sequenza ho fatto un Belgrado, Los Angeles, Tokyo, che devo dire è un viaggio di cui sono molto orgoglioso. Mica male, cos'è successo durante questo viaggio? Guarda, facciamo così, tecnicamente parlando, il Brasile maschile ha rivinto la World League a Belgrado, però questa è una storia, insomma, tecnicamente parlando interessante perché vince con un nuovo palleggiatore, però ci sono due storie belle che vorrei raccontarti, una è una storia americana e una è giapponese, quindi sì, a te decidere quale preferisci. Stati Uniti, partiamo da lì, dai. Partiamo da lì, allora facciamo così, intorno a gennaio mi chiama il mio vecchio compagno di squadra a Milano, Giovannelli, palleggiatore, mi dice, senti, ci sarebbe Marco Mastro Donato che vorrebbe invitare tre, Claudio Galli e Marguti, che avete giocato a Milano negli anni 90, a fare un torneo di beach volley 6 contro 6. È un torneo fantastico, il Manhattan Beach Open, centinaia di squadre, si gioca anche mascherati, è divertentissimo. E poi noi si vorrebbe vincere contro The Legend, che sono questi giocatori, magari non conosciutissimi da tutti, però Tim Hovland, Mike Dodd, Randy Stoklos, Shinji Smith, Foino Moana, quindi gente che ha vinto mondiali e olimpiadi nel beach volley. Noi naturalmente accettiamo di corsa, però si sente un po' la pressione anche di dover essere noi tre, io, Margutti e Galli, ad alzare il livello di rendimento di questa squadra. Ci avviciniamo intorno a luglio e diciamo, qualche allenamentino potremmo farlo. Peccato che Margutti nel frattempo si è rotto il menisco e quindi è in fase di convalescenza. Io e Claudio, in quel di Milano, con il caldo di luglio che tu ben ricordi, andiamo in un paio di campi di beach, è stato un disastro. Affondati nella sabbia, sudati, incapaci di giocare. Allora Marco Mastrodonato, l'organizzatore e anche giocatore del viaggio, mi dice... volevo parlarti, ma aspettavo ormai una ramanzina fa, così arriva il taglio. Arriva il taglio prima di partire. Mi dice: senti, ho visto che i miei compagni, siccome sono non troppo professionisti, però quando tu dai dei consigli e quando fai delle proposte di esercizio ti ascoltano molto volentieri. Quindi fai attenzione, cerca di essere quello che guida un po' l'allenamento. Mamma mia, com'è sta roba? Allora iniziamo un allenamento intenso, serio, andiamo a Los Angeles, posto fantastico, ospitati nella Beach House, a Hermosa Beach, una di queste spiagge a sud di Los Angeles bellissime. Mi sveglio al mattino, apro la finestra, mi sembrava di essere in un acquario, blu dell'oceano Pacifico con le onde e i surfisti, la spiaggia bellissima con un sacco di campi di beach e poi questa pista con un sacco di pesci colorati, che in realtà erano uomini coloratissimi che correvano avanti e indietro perché tutti si allenano. Uomini, bambini, mamme incinta con la carrozzina. Obbligatorio. Obbligatorio, infatti, secondo me lì c'è un test ingresso. Per abitare a Manhattan Beach, a Redondo Beach o a Hermosa Beach devi essere in forma, ovviamente. Non troppo vecchio perché guasteresti un po' l'immagine dell'acquario. Devi essere abbastanza ricco perché tutto costa moltissimo naturalmente. E secondo me, se possibile, devi aver fatto anche qualche ritocco estetico che in quel caso... comunque diciamo facoltativo ma gradito. Gradito. Quindi noi al mattino ci alziamo e andiamo giù ad allenarci, ma allenarci seriamente. Alla sera alle 10 tutti a letto, si avvicina uno dei ragazzi che partecipa a questa squadra e fa: ma senti, ma noi l'anno scorso andava fuori a Los Angeles, downtown, discoteca. Fa: no ragazzi, si gioca sabato e domenica, siamo qua per fare il nostro meglio, seri, mugugni di qua di là. Insomma, si va avanti in questa esperienza bellissima, inizia il torneo, guarda, uno spettacolo, a parte il fatto che c'erano circa 200 squadre che partecipavano, uomini, donne, tutti mascherati, naturalmente moltissimi bellissimi, a parte noi, tutti con la propria tenda. Nella nostra tenda c'era il lettino da massaggio, la frutta per mangiare, per bere, era tutto perfettamente organizzato. Il bisuolo è una religione, Andrea. È nato lì, si capisce perché, e tutti giocano benissimo. Inizia un'agitazione, inizia il primo giorno torneo, praticamente gruppo da 5, me due passano al turno successivo al giorno dopo. Al mattino delle battaglie contro persone che sembravano scarse, ma sapevano giocare bene, ma giocare bene nella sabbia che è un altro paio di maniche. Quindi insomma, tra insulti più o meno compresi o meno, perché sei italiano, inglese, si può... Andiamo avanti, facciamo una fatica bestiale, ma passiamo il turno. Il giorno dopo iniziano le squadre veramente quelle molto difficili e devo dire che noi abbiamo giocato molto meglio di quanto mi aspettassi, ma molto meglio di quanto mi aspettassi. Andiamo in finale contro The Legend e ci danno una bella ripassata. Come Dio comanda, abbiamo preso una bella batosta. Però forse è la prima volta in vita mia in cui esco dal campo sconfitto, però senza tanti rimorsi. Si poteva fare un po' di più, ma ti assicuro che erano veramente forti, bravissimi. Poi il beach volley, la tecnica del beach volley la si riconosce, la si vede. Questi in difesa sono dei gatti. Noi eravamo tutti sporchi, insabbiati, affaticati, e questi sembravano delle gazzelle che si muovevano nella sabbia. molto bello, anche perché oltre all'emozione di giocare contro loro, che nella pallavolo significano veramente moltissimo, il piacere anche di essere, come dire, riconosciuti noi come italiani, certo. Old Legend Milano ci chiamavamo noi altri. Sì. Guarda, ma d'altra parte la tua faccia la conoscono anche lì, eh. Non davo per scontato però che nell'ambiente del beach, questo ti assicuro, è stata una bella sorpresa. Non mi aspettavo che Randy Stoklos, che lì è considerato veramente il padrone di casa perché è nato a Manhattan Beach ed è considerato anche, come alcuni americani sanno fare, uno un pochettino con naso all'insù, è stato piacevolissimo. Insomma, alla fine ci hanno invitato alla loro festa The Legend per chiacchierare un po', per parlare, quindi devo dire una bellissima esperienza, davvero molto molto felice di quanto accaduto. Quindi poi siete riusciti a far festa, i ragazzi erano contenti. Alla fine hanno potuto fare, c'erano un paio, ma siamo arrivati, c'era la macchina a noleggio organizzata, l'albergo era bellissimo, campi da beach perfetti, alla sera il massaggiatore organizzato, sembrava una roba fantastica, guarda, veramente bello. Sì, detto da te che qualche Olimpiade l'hai giocata, insomma. Ovviamente, io devo dire, non c'ho il modulatore in questo, sì. O è acceso o è spento, quindi per me ogni partita è come se fosse la più importante del mondo. Però devo dire che lì sono riuscito a trovare un buon equilibrio tra il piacere di partecipare a un evento che è anche agonistico, però che è anche di grande partecipazione, sì. Facendo una buona partita, perché devo dire che alla fine si è giocato piuttosto bene. E adesso la storia giapponese, eh? Ma questa, guarda, è una storia, naturalmente in Giappone anche lì, World Grand Prix, quindi il torneo omologo del World League al femminile, rivince ancora anche lì il Brasile femminile di Zeroberto, che ha vinto l'Olimpiade dell'anno scorso, sorprendente perché con soli pochi mesi di distanza ha ricostituito una squadra molto giovane, ma che gioca benissimo a pallavolo, molto meglio delle altre. Una Russia strepitosa, squadra, come tu sai, che ha a disposizione migliaia di atleti di altissimo livello, ma che sta facendo un percorso molto interessante, potrebbe crescere moltissimo. Mancava l'Italia, l'anno scorso per questioni proprio di programmazione non ha partecipato con la squadra migliore alle qualificazioni e non si è qualificata, ma l'Italia rimane, lo vedremo tra qualche giorno all'Europeo, una delle squadre più forti al mondo. Ma la storia, così che volevo raccontarti, che dopo tante volte che vado in Giappone ho scoperto ancora una cosa un po' diversa, è che il termine homeless, senza casa, potrebbe essere usato solo in Giappone con il significato più corretto, perché Tokyo è una città gigantesca, perfettamente pulita, perfettamente sicura, non ti perdi da nessuna parte, però in alcuni parchi, nella zona di Shinjuku, ci sono delle tende dove vivono dei homeless. Io pensavo un po' al homeless pensando un po' all'Italia, un po' agli Stati Uniti, invece non è così, perché quegli homeless sono persone che hanno un lavoro, che al mattino alle 8 rinchiudono la loro casa, quindi il loro cartone, mettono a posto la coperta, il cuscino, impacchettano tutto perfettamente, chiudono con delle cinghie, quindi vedi la perfezione giapponese, vanno a lavorare, al pomeriggio ritornano in questo posto. La maggior parte di loro è perché ha chiuso i rapporti con le loro famiglie, quindi non hanno una casa, né vogliono avere una casa, perché a Tokyo, ti lascio immaginare, veramente un'impresa economicamente insostenibile, e fanno questa vita, in cui però non c'è, come dire, quel disadattamento, quel degrado profondo che caratterizza, esatto, la realtà e quindi tutto il resto del mondo. È normale vedere il homeless giapponese, il quale lì che gioca con la PlayStation, che legge un libro, o magari in momenti di maggior caldo che con il ventaglio si sta sventolando per avere un po' più di fresco. Andrea, avanti per ora, abbiamo invece ancora soltanto 3 minuti, solo per dirti, comunicazione di servizio che faccio a te e a tutti gli ascoltatori, che avremo parecchio lavoro da fare a settembre, campionati europei dal 3 al 13 gli uomini in Turchia. Esatto. Cosa succede lì secondo te? Succede... Che storia turca andremo a pescare? Allora, limitiamoci naturalmente a un'idea tecnica, non la vedo benissimo per l'Italia, la quale non ha fatto benissimo qualche giorno fa nel torneo Pachner in Polonia, ha perso con la Polonia, è una squadra che ha buone potenzialità, io credo che gli manchi un po' la potenza in attacco dell'opposto Fei, che non partecipa a questi europei. Per il resto, sulla carta siamo ancora, come sempre accade, abbastanza coperti, ma le prestazioni non sono ancora di così alto livello. Mi auguro per davvero, come spesso accade negli ultimi tempi nella pallavolo mondiale, che poi quando si è in campo, quando le partite contano, i nostri ragazzi sappiano fare del loro meglio, ma non arriviamo in condizioni, non siamo sicuramente favoriti, anche perché non dimentichiamo che altre squadre, a partire dalla Russia, a partire anche dalla Bulgaria, sono squadre che fisicamente ci sono superiori, quindi arrivata ai primi 4 io lo considererei un successo. Le ragazze invece? Possono fare meglio. Io penso che l'Italia femminile possa essere considerata una delle grandi favorite, perché è una squadra che ha grande esperienza, ha grandi atlete, nella pallavolo femminile ancora più che quella maschile, diciamo che alcune partite potrebbero cambiare strada facendo, questa fa parte della sorpresa che caratterizza la pallavolo femminile, però io sono molto fiducioso nelle donne. Ovviamente l'anno scorso siamo rimasti delusi quando nei quarti di finale, certo, a Pechino hanno perso quella partita in modo veramente inimmaginabile, però continuo a pensare che Barbolini con Agüero, con Lo Bianco, con Piccinini possa fare grandi cose, e in quel caso essere tra i primi quattro non sarebbe sufficiente per fare un buon europeo. Tu ci sei a raccontarci tutto quanto, vero? Non parti più. Ci mancherebbe altro. Il prossimo appuntamento per me è campionati master in ottobre in Grecia. Vabbè, e saremo tutti lì, saremo tutti lì naturalmente. Grazie davvero ad Andrea Zorzi, grazie a tutti voi che ci avete seguito. A Tempo di Sport torna domani, vi ricordo, per la prima volta in stagione, appuntamento al sabato, torna con gli orari consueti, cioè dalle 17 alle 18, quindi appuntamento simile a quello della scorsa stagione sportiva, e non potrebbe essere altrimenti, c'è un derby da aspettare. Ci sentiamo domani dunque alle 17, buona giornata a tutti.